aspettando America 24. Buongiorno da Gigi Donelli, sono le 13:46 minuti qui in Italia, le 7:46 sulla East Coast americana, dove raggiungiamo ancora questa settimana che ci porta verso America 24, Mario Platero. Ieri a Washington da New York. Buongiorno Mario, innanzitutto. Sì, buongiorno Gigi, sono tornato a New York e abbiamo una signora con noi. Sono nel quartiere haitiano qui a New York, a East Harlem, e voglio una testimonianza diretta perché la città è totalmente sconvolta ovviamente da quello che è successo. Ci sono circa 300.000 haitiani secondo calcoli ufficiosi, 180.000 secondo i calcoli ufficiali. Ma sentiamo questa signora. What did you think when you saw yesterday the news and think what's the mood in the island? Oh, it was a big disaster. I felt for the people because I'm from the Caribbean also. I'm from Jamaica, so... Ok, interrompiamo subito. La signora è di un'isola vicina della Giamaica, ha amici haitiani qui in zona, in questo quartiere. Al numero 60 c'è la comunità, una delle comunità haitiane, e la situazione in generale qui negli Stati Uniti è tale che ci sono una gran quantità di aiuti che stanno per essere spediti. Una porta aerei arriverà domani mattina. Il presidente Bill Clinton si è mobilitato. È molto interessante la storia di Bill Clinton, tra l'altro, perché il presidente era stato nominato da una commissione delle Nazioni Unite alla carica di inviato speciale del segretario generale dell'ONU, e questo un anno fa sembrava così come una piccola demotion per questo presidente americano, e invece eccolo che si ritrova al centro dell'attenzione, si ritrova proiettato nel contesto internazionale proprio per questa che diventa la più importante missione di aiuti. Ecco Mario, ieri ci hai raccontato che naturalmente, come da questa mattina, come ribadisci questa mattina da East Harlem, quindi ritorni ad Harlem nella parte settentrionale di New York, di come questa città da cui partono i racconti americani di fatto sia capace di catalizzare le comunità. Oggi lo vediamo appunto con quella haitiana, ma insomma questo è forse uno degli elementi più affascinante anche di quello che è la Grande Mela. Naturalmente tu continuerai a raccontarci il mood della città. Vorrei però chiederti adesso di farci anche un breve punto sull'altra parte che tieni sempre d'occhio, cioè il mondo dei mercati, quello che comunque e nonostante ogni diciamo episodio di cronaca per quanto drammatica ha i suoi tempi e i suoi sviluppi. Sì, dunque i mercati sono alquanto tranquilli. Oggi si attende con ansia il risultato di Intel, il primo dei tecnologici, quindi avremo un po' la misura di come il settore tecnologico si muoverà. C'è stato ieri un risultato importante, il Beige Book della Federal Reserve, che ha dato un quadro dell'economia più o meno conosciuto, e dunque i mercati hanno retto, soprattutto perché ormai c'è la conferma che per i prossimi 6 mesi i tassi di interesse resteranno grosso modo ai livelli a cui sono adesso. E dunque mercati dal punto di vista dei dati, delle statistiche, così tutto sommato abbastanza tranquilli. Meno tranquilli per quello che è successo ieri a Washington. Le audizioni dei banchieri sono state, ne abbiamo parlato prima che entrassi a seguire queste edizioni, dunque oggi posso darvi un piccolo resoconto. Sono state alquanto brusche, quantomeno sul piano verbale. Ricordiamo, ieri cominciava la sfilata dei grandi banchieri chiamati a raccontare di fatto il loro punto di vista e le operazioni riguardo alla crisi finanziaria. Prego Mario. Sì, i 4 banchieri principali sono stati convocati in mattinata, nel pomeriggio ci sono stati poi dei rappresentanti di alcune istituzioni, ma direi che la parte più importante ha riguardato i banchieri, soprattutto la testimonianza di Blankfein, che è il capo di Goldman Sachs. C'è stato uno scontro fra lui e Angelidis, che è il presidente di questa commissione. La commissione ha cercato in qualche modo di mettere nell'angolo questi banchieri, cercando di fargli ammettere che forse avevano peccato di rischio, che avevano preso troppi rischi nel momento in cui nel 2007 si esponevano così tanto su mutui immobiliari, su subprime e così via, così via. Ecco, questa confessione, fra virgolette, non c'è stata. I banchieri hanno tenuto duro e a un certo punto c'è stato questo scontro verbale, per cui per esempio a un certo punto Angelidis, parlando proprio con Blankfein, che così cercava di andare attorno all'argomento, dice: ma insomma, se posso tradurre quello che è successo e quello che lei mi sta dicendo, e si riferiva al fatto che da una parte Goldman Sachs vendeva dei pacchetti di investimento agli investitori e dall'altra parte però scommetteva contro quegli stessi pacchetti sul mercato, quindi una specie di doppio gioco, un conflitto di interesse. Ebbene, diceva Angelidis, un po' come se lei sapeva che una macchina era senza freni, l'ha venduta lo stesso e poi è corso a fare un'assicurazione sulla vita a suo favore, ma contro il guidatore che ha comprato la macchina. Ecco, è lì che la voce di Blankfein si è alzata di un'ottava, ha cercato di spiegare che non è vero, che le banche non possono garantire i profitti, le banche sono degli intermediari e che il mercato è il mercato e che quei signori che hanno acquistato erano degli esperti, erano gestori di fondi pensioni importanti. Risposta di nuovo di Angelidis: sì, erano esperti, ma quei fondi pensione erano fondi pensione di poliziotti, di vigili del fuoco, di insegnanti. Un messaggio che arriva al 349-238-6666, Paolo, è uno spunto che trovo grazioso da citare. Paolo dice: guardate che Bill Clinton è ex presidente, mi viene in mente negli Stati Uniti e non solo peraltro, anche in Italia, quando ci si confronta con figure, appunto con ex presidenti non più in carica, si usa l'espressione presidente. Senz'altro, grazie a Paolo per la segnalazione, abbiamo presente ruolo, ma appunto Clinton è una di quelle figure, peraltro Harlem è diventata di fatto la sua sede operativa per molto tempo dopo appunto che ha lasciato la Casa Bianca. Ecco, visto che abbiamo citato l'elettronica, Mario, ci dai invece uno spunto per quanto riguarda America 24, che lo ricordiamo, non è solo il nome del programma, ma è anche una piattaforma multimediale. Sì, scusami, l'hai già fatto tu, ma sempre rispondendo a Paolo. E qui tradizione che chiunque sia stato presidente viene chiamato presidente per la vita, ovviamente non è più in carica da 12-14 anni. Dunque il sito America 24 è un nuovo sito completamente autonomo dedicato all'America, è un sito che ha delle funzioni di comunità, c'è una comunità che si chiama Americanti e l'idea è quella di aprire una porta sull'America, di dare notizie in continuazione sull'America in tempo reale dal punto di vista del business, della finanza naturalmente, ma anche su quello politico e del costume e della cultura. Ci sono delle sezioni di servizi per coloro che vengono in America, ci sono consigli per soggiorni, per alberghi, per ristoranti, insomma è un sito interattivo che in questo momento è ancora in formato beta, quindi non è ancora finito al 100%, ma invito chiunque sia interessato ad andarlo a visitare, america24.com. Mario, ci sono naturalmente molti spunti anche sul sito, ma anche dalle nostre conversazioni ieri ci hai parlato di big che litigavano e hai citato Mardo, quindi un grandissimo nome dell'editoria. So che ci sono movimenti anche in seno al mondo dei Kennedy a proposito di ex presidenti e naturalmente qui parliamo di un altro ramo della famiglia. C'è una storia, una vicenda alquanto delicata che riguarda la politica americana e riguarda il seggio di Ted Kennedy, che è tornato ad essere in ballo e ci sarà questo voto martedì, il primo voto importante per questo seggio senatoriale. Ci sono due persone in corsa, c'è la Coakley per il Partito Democratico, che è l'ex procuratore generale dello Stato, e c'è Scott Brown per il Partito Repubblicano, che è un senatore locale. Ecco, questa corsa sembrava scontata, il Massachusetts Democratico, non dovevano esserci dubbi di nessun genere e la concorrente democratica ha avuto finalmente, purtroppo tardi, l'appoggio dei Kennedy, ma comunque aveva una decina di punti di vantaggio, fino a 2-3 giorni fa, quando i repubblicani si sono resi conto dell'importanza di questa corsa e hanno scatenato un'offensiva davvero importantissima. Hanno collezionato, sono riusciti a raccogliere su internet 1,3 milioni di dollari, hanno mobilitato la base del partito e hanno cercato di riconquistare il terreno perduto. C'è stato poi un dibattito fra i due in cui il repubblicano è emerso, Brown è emerso direi forte, un uomo che si presenta molto bene, giovane, giovanile, e dunque la corsa improvvisamente diventa incerta, perché a questo punto il concorrente democratico ha soltanto pochi punti di vantaggio. Ecco, cosa succede se questa corsa dal punto di vista democratici non va nella direzione giusta? Beh, è un grossissimo problema, perché significa che la maggioranza di 60 voti che il presidente Obama sa di avere al Senato e che gli serve per poter passare alla riforma sanitaria potrebbe non esserci più, si potrebbe scendere a 59. Non solo, guardando in avanti una vittoria in Massachusetts, la conquista del seggio che fu di Ted Kennedy, diventa sul piano simbolico un grosso punto di forza per i repubblicani che guardano già alle elezioni di novembre e conferma le difficoltà in cui si trova il partito in una situazione economica, politica che resta difficile un po' su ogni fronte. Anche per quello Obama sta cercando di reagire e proprio oggi annuncerà la famosa tassa sulle banche, una tassa controversa che ieri i banchieri hanno criticato, una tassa che dovrebbe portare, ma questo lo sapremo fra un paio d'ore, circa 90 miliardi di dollari nelle casse degli Stati Uniti. Grazie a Mario Platero, siamo puntualissimi alle 57.30, naturalmente gli aggiornamenti in GR24 nell'appuntamento domani alle 13.45 con America 24.